Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora anche oggi raccontiamo la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Anche oggi il programma terminerà alle 18, ci sarà infatti lo speciale di Radio 24 dedicato al terremoto dopo le 18. Dicevamo la cronaca della giornata, buona la seduta di borsa, più 1,6% il MIBTEL, più 1,8% l'S&P MIB, nel giorno in cui però oggi quasi da gufo il Fondo Monetario Internazionale che gela tutte le caute speranze o cauti ottimismi, perché dice attenzione, la crisi è ancora lunga e soprattutto è una crisi intensa, tra virgolette virulenta, dice lunga e severa l'attuale recessione, insolitamente lunga e severa per essere precisi, e la ripresa è lenta, e poi chiede politiche coordinate. So già l'obiezione che alcuni di voi faranno: dov'era il Fondo Monetario negli anni passati? Lo so, sempre più facile arrivare dopo e commentare dopo, ma tant'è. Poi c'è il dato sulla Cina, che nei primi tre mesi del 2009 ha rallentato in maniera molto molto forte. Già ieri vi avevamo accennato più 6%, ora il 6% qui sarebbe una cosa impensabile, però ricordiamoci che il governo cinese ritiene che una crescita economica sotto il 7-8% non garantisca l'ordine e la tenuta sociale, come dice sempre Pechino. È la crescita più debole da quando esiste la serie statistica trimestrale del PIL cinese, ossia dal 1992, però corrisponde più o meno alle previsioni degli analisti. Un dato su tutti e poi passiamo alla notizia in breve: 20 milioni sono i cinesi che hanno già perso il posto di lavoro, 20 milioni da quando è arrivata la crisi anche in Cina, e sono tornati nelle campagne. Sono cifre che diventano quasi difficili da immaginare, 20 milioni di persone che tornano nelle campagne, e il governo di Pechino ha già stanziato 584 miliardi di dollari. A questo proposito, oggi affronteremo e racconteremo la crisi nella sua geografia, ossia parleremo di come si è cambiato anche il rischio credito, l'analisi dei crediti, l'analisi delle controparti per le imprese che devono andare sui mercati internazionali, perché questa crisi ha anche ridefinito la geografia del credito. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Mercati ci chiede subito del petrolio, ve lo diamo subito il petrolio. Il petrolio è aperto in leggero rialzo a 49,86 dollari al barile. Il numero per gli sms resta 349-238-6666. L'Euribor è sceso all'1,41%. Per quello che riguarda i dati trimestrali, segnalo Nokia. Nokia oggi ha visto un calo del 90% degli utili ai minimi da oltre 10 anni. L'utile c'è però per il colosso finlandese, è sceso a 122 milioni di euro contro 1 miliardo e 220 milioni però dei primi tre mesi del 2008. Gli utili di Nokia sono stati però nettamente peggiori rispetto alle stime degli analisti, che speravano in un dato almeno doppio, cioè 232 milioni. Meglio del previsto invece i conti di JP Morgan. Allora, è uscita Goldman Sachs a inizio settimana, questa è una settimana importantissima, ci sarà Citigroup, se non ricordo male, venerdì, come dati trimestrali. JP Morgan, che comunque è la seconda maggiore banca americana, ha chiuso i primi tre mesi con un utile in calo, ci mancherebbe, del 10%, però a 2 miliardi e 140 milioni di dollari, che significa 40 centesimi di dollaro per azione. Le previsioni erano più basse, erano peggiori, a 32 centesimi di dollaro per azione. E tra l'altro questi risultati, voglio dire assolutamente positivi visto il periodo, sono frutto della strategia molto aggressiva del numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon. E tra l'altro io ricordo che JP Morgan si è già fatta carico della crisi, pur non essendo lei direttamente coinvolta in maniera massiccia, perché ha acquistato Bear Stearns l'anno scorso e Washington Mutual lo scorso settembre, cioè si è fatta carico di banche o società fallite. E tra l'altro lo stesso numero uno di JP Morgan ha detto che potrebbe restituire già da domani i fondi TARP, ossia il programma di aiuti pubblici. TARP sta per Trouble Asset Relief Program. 25 miliardi di cui ha usufruito potrebbero essere restituiti già domani. E tra l'altro JP Morgan comunque si conferma la banca che ha meglio retto di fronte alla crisi. La capitalizzazione è scesa, ma non in maniera così drammatica, da 165 miliardi a 122. Ha dovuto operare 30 miliardi di svalutazione di asset tossici, di prodotti tossici, però insomma molto meglio di altre. Domani appunto Citigroup e lunedì invece vi sarà la volta di Bank of America. Del Fondo Monetario Internazionale abbiamo detto, e anche della Cina. Il dato sulle costruzioni di nuove case in America, marzo, peggiore delle attese, meno 11% quasi il calo nella costruzione di nuove abitazioni. Vanno anche a record, ma questo era atteso, i pignoramenti in America. Nei primi tre mesi dell'anno sono state 803.000 le notifiche di pignoramento o le vendite all'asta, un più 24%. Che cosa sta capitando? Lo abbiamo raccontato molte volte, la pioggia di licenziamenti in America rende impossibile per molte famiglie pagare le rate del mutuo. E tra l'altro spesso mutui concessi al 70-80% del valore dell'immobile, non sono mutui subprime, questi sono anche spesso mutui normali, però se crolla nel frattempo, come sta capitando in America, il valore della casa e quindi anche quello che tu pensavi essere il tuo investimento, e perdi il posto di lavoro, non bisogna essere un economista per capire che poi aumentano a livello record i pignoramenti. E la preoccupazione è che in America la situazione peggiori ancora, perché sta per scadere il piano di emergenza che ha consentito fino ad ora di rinviare molte notifiche di peggioramento. Un dato di pignoramento, scusatemi. Un dato migliore delle attese invece è il sussidio di disoccupazione in America, perché è calato di 53.000 unità. Anche qui in chiaroscuro i dati continuano ad arrivare dall'America. La produzione industriale europea a febbraio meno 2,3% rispetto a gennaio, meno 18% su base annua. Anche qui però febbraio lo sappiamo che è un mese molto molto pesante. I dati auto li ha ricordati anche il nostro GR. La marzo in Europa ha fatto un meno 9%, in Italia invece un più 0,2% le immatricolazioni. Il gruppo Fiat molto bene in Europa, più 14,7%, e la quota, come già anticipato ieri da Marchionne, da Sergio Marchionne, numero uno di Fiat, la quota di Fiat a livello europeo sale al 9,2% del totale delle macchine immatricolate, mentre l'anno scorso era al 7,4%. E chiudiamo con Fiat, o anzi restiamo con Fiat, perché l'operazione Fiat Chrysler ha il 50% di possibilità di andare in porto, altrimenti il gruppo di Torino ha in mente un piano B. Lo ha detto il presidente della Fiat, Luca Cordero di Montezemolo, al microfono della nostra Paola Cavadi, a margine della decima lezione Angelo Costa. Al Luis, sentiamo. Come ha detto Marchionne, l'operazione ha 50% di possibilità di essere realizzata. È un fatto importante, è un fatto importante per la Fiat, per l'immagine della Fiat, per le possibilità che ha Fiat negli Stati Uniti, ed è un fatto credo molto importante per i prodotti italiani e per l'industria italiana nel più grande mercato del mondo. E un commento sull'aumento della quota Fiat a livello europeo è arrivato anche dalla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, sempre a margine della lezione Angelo Costa alla Luis, sempre a microfono della nostra Paola Cavadi. Sembra che il dato sia ovviamente molto positivo, c'è un aumento di quote di mercato ulteriori a testimonianza appunto del valore, della capacità di Fiat di stare sui mercati, unito al fatto che, come dire, è il grande potenziale partner per Chrysler. Mi pare che questo evidenzi il valore e l'importanza del nostro gruppo, e in un certo senso questo è anche un elemento che rende, come dire, l'imprenditoria italiana orgogliosa e fiera. Quindi bene questo dato. Certo, la congiuntura rimane una congiuntura complicata, però assistiamo a qualche debole ma comunque presente indicatore che sta a segnalare che probabilmente il peggio l'abbiamo visto e che forse proprio adesso comincia una difficile ma comunque presente possibilità di ricrescere e quindi di ritornare a un livello di economia meno peggio di quello che abbiamo visto in questi mesi. E la presidente di Confindustria Marcia Gaglia ha anche espresso la soddisfazione per la firma ieri sera, ne abbiamo parlato nel programma nel GR, dell'accordo con i sindacati CGL esclusa, l'accordo che riguarda il nuovo modello contrattuale. Anche qui abbiamo fatto parecchi approfondimenti, ma in sostanza c'è un livello aziendale che diventa più importante, c'è un modo nuovo di calcolare l'inflazione su cui poi si agganciano i salari. Sentiamo la presidente Confindustria. È l'ultimo atto di un processo che è iniziato a giugno, che ha visto l'accordo di ottobre, l'accordo poi di gennaio e ieri la firma definitiva. Come abbiamo già detto, noi siamo convinti che questo sia un accordo utile, va assolutamente nella direzione indicata dall'Europa, unisce salari a produttività e questo è il vero grande tema che è mancato in questi anni. L'unico modo per aumentare i salari, che è un elemento e un obiettivo vero, è quello di aumentare la produttività, che è mancata in questi anni. Noi siamo dispiaciuti per il fatto che la CGL non abbia firmato, però adesso auspichiamo che nei contratti di categoria che si faranno, quindi telecomunicazioni, chimici, meccanici, prevalga da parte di tutti un senso di responsabilità, non ci siano rotture, perché in questo momento dobbiamo dare comunque un esempio di unità e non di rottura, perché questo è quello che ci chiedono i lavoratori e le persone. E sempre la presidente Confindustria ha commentato anche l'ipotesi di un prelievo fiscale una tantum per i redditi sopra i 130-140 mila euro per recuperare risorse fuori dai terremotati. Ha detto: aumentare le tasse non è mai positivo. E poi ha aggiunto: decide di non accorpare la data del referendum con quella delle altre elezioni, spendendo 400 milioni dei cittadini, tema del dibattito politico, è assolutamente inaccettabile. Inflazione italiana a marzo, la conferma, è scesa all'1,2%, il minimo dal 1969, e ripeto, questa è una buona notizia per chi il lavoro ce l'ha, non l'ha perso, e ce l'ha come lavoratore dipendente, perché è chiaro che è ipotizzabile che si recuperi un po' di potere d'acquisto se l'inflazione resta a questi livelli. L'1,2% è veramente un livello di non inflazione. Tra l'altro, per quello che riguarda il terremoto, ci chiede alcune precisazioni. Il Presidente del Consiglio ha detto che per rifare le case lo Stato darà il 33%, poi sarà concesso un mutuo del tasso al 4% e possibilmente fino al 50% del valore dell'immobile. Un ultimo dato italiano riguarda invece il mondo dei periodici e dei quotidiani, e mi riferisco quindi al rapporto sulla stampa in Italia 2006-2008, cifre in netto peggioramento, le perdite sono aumentate del 100%, gli utili sono calati del 30% per i quotidiani. E adesso, come annunciato, primo tema di questa puntata, il viaggio, il racconto di questa crisi nelle sue diverse sfaccettature, appunto con i diversi colori che sta assumendo e tinte che sta assumendo, significa anche ridefinire la geografia del rischio dei vari paesi. È infatti chiaro che la crisi economica ha, tra le altre conseguenze, ha anche ridisegnato la geografia del rischio dei vari paesi, delle aree geografiche, paesi che prima sembravano assolutamente affidabili o addirittura venivano indicati come dei casi virtuosi o economie in crescita, diventano adesso paesi rischiosi per la prima volta in molti casi. Certo che può capitare anche il contrario, che un paese prima rischioso, tutto sommato, di fronte a questa crisi si sia mosso meglio di altri. Per capire allora come si stia ridisegnando per gli imprenditori che devono andare sui mercati, devono restare sui mercati a esportare, la geografia del rischio paese, siamo in collegamento con Riccardo Carradori, che è amministratore delegato della COFACE, o COFAS se la si vuole dire in francese. Buonasera, dottor Carradori. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. La COFACE, lo dico per chi non lo sapesse, è la società che accompagna, ed è un gruppo internazionale tra l'altro, che gestisce i crediti commerciali, quindi accompagna le imprese a valutare i finanziamenti dei crediti, l'assicurazione dei crediti, le informazioni sul rating di imprese, il recupero di questi crediti, per cui poi ne parleremo, ma voi date una mano, accompagnate le imprese sui mercati internazionali proprio nella gestione complessiva del credito. È molto corretto. La ringrazio. Allora, prima domanda. Siccome dicevamo che la crisi economica ha cambiato anche la geografia del rischio, pensiamo all'Irlanda, pensiamo all'Est Europa, che fino a un anno fa, un anno e mezzo fa, sembravano economie tutte floride, tutte in crescita, dove investire. Ci può descrivere questa nuova mappa? Vale la pena considerare un aspetto, che questa crisi è molto peculiare, perché è una crisi che in qualche modo è paragonabile per ampiezza a quella del 73-75, quindi molto pesante, e che trova insieme una crisi finanziaria e una recessione. In quest'ultimo periodo devo dire anche un rischio di deflazione. Nella nostra esperienza, quando si cumulano tutti questi effetti negativi, la durata della crisi tende a raddoppiare. Quindi se normalmente si esce dalla crisi dal momento del suo inizio in 12 mesi, qui parliamo di 24-30 mesi. Nel caso specifico dell'Italia la crisi ha iniziato a manifestare i suoi effetti in maniera rilevante a partire direi dall'ultimo trimestre del 2008 e quindi noi intravediamo uno scenario di uscita che parte, cioè atterra 24 mesi dopo da settembre del 2008. Naturalmente in questo scenario, dove peraltro i cicli economici degli ultimi 40 anni si sono ridotti, compressi, quindi se prima i cicli duravano circa 10 anni, oggi siamo a 5 anni in media, è facilmente comprensibile che le capacità delle imprese di recuperare in tempi di crisi così pesanti si riducono ed aumenta moltissimo la complessità della crisi. Questo è un altro elemento di particolare rilievo perché, diversamente da altre crisi che erano state considerate più o meno globali, questa ha una progressione differenziata della manifestazione degli effetti. Cos'è la progressione differenziata nella manifestazione degli effetti? Quello che accade è che ci sono dei paesi, che sono i paesi dove è scoppiata la bolla, per esempio, dei mutui subprime, mi riferisco agli Stati Uniti, ma poi gli effetti anche che questo può aver avuto in Inghilterra e in Irlanda, che erano considerate economie molto forti, come lei diceva, dove sono state fatte delle scelte penalizzanti e quindi la bolla è scoppiata molto prima, con effetti estremamente intensi in un periodo sufficientemente breve. Questa crisi poi ha contagiato via via altri paesi in funzione della velocità di crescita dell'economia di questi paesi. Quindi l'Italia insieme alla Germania sono state tra le ultime ad essere colpite perché la loro velocità di crescita dell'economia interna era ridotta rispetto a quella che citavo prima. Ed ecco che la geografia si ridisegna perché i momenti di picco della crisi, dove si concentrano maggiormente i mancati pagamenti, le difficoltà delle imprese, le difficoltà di cassa, si presentano in alcuni paesi in certi mesi, in altri paesi in altri mesi. E quindi questa crisi è come un'onda lunga che si sposta con effetti diversi sulle diverse aree. Adesso ho capito anch'io. Quindi lei dice non c'è solo una modifica del rischio di un paese. Io citavo Irlanda, Est Europa, lei giustamente ha riconosciuto che gli stessi Stati Uniti, cioè la prima economia al mondo, sono diventati un paese a rischio per alcuni crediti, per alcuni investimenti, per alcune sulla affidabilità di ritornare i crediti che sono stati concessi. Ma oltre a questo si somma anche una difficoltà temporale, cioè un paese è a rischio o è meno a rischio in una certa parte dell'anno, però questa onda lunga poi colpisce anche lui, quindi diventa rischio, non è solo più un problema diciamo geografico. E questo rende più difficile orientarsi alle imprese, perché le imprese che hanno una forte vocazione internazionale all'export, se sono abituate ad esportare, faccio un esempio, in Spagna, che è stato uno dei paesi europei più colpiti dalla crisi, ed in Austria, deve avere un approccio molto diverso, perché in Spagna dovrà fare molta attenzione, l'Austria, che rimane un paese estremamente solido, invece non desta preoccupazioni. Quindi la capacità di avere una visione globale sui diversi mercati sui quali si tende ad investire o ad esportare, dico investire perché per esempio considero i paesi dell'est, no? Che sono stati fino a ieri un punto di riferimento importante anche per gli imprenditori, alcune grandi banche italiane, oggi sappiamo che quegli investimenti, mi riferisco in particolar modo a Ucraina, Russia, per certi versi altri paesi dell'area dell'est, sono sicuramente oggi molto più rischiosi, no? Allora bisogna capire uno dove andare a investire e in che momento, l'altro dove riuscire ad esportare i propri prodotti per essere certi di poter essere pagati. E quindi quanto difficile è fare impresa in questo momento lo si capisce non solo perché si va a cercare di vendere, di esportare in un'economia comunque in fase ancora recessiva e di contrazione, ma per di più non si ha nemmeno più la l'affidabilità, così la mappa mentale oltre che geografica che si aveva prima, per cui la Spagna diventa improvvisamente un paese difficile e rischioso, altri paesi, tra l'altro paesi che invece secondo lei hanno visto migliorare la propria affidabilità paradossalmente perché sono peggiorati gli altri o perché comunque erano meno esposti su certi prodotti tossici, su una certa finanziarizzazione dell'economia? Ma diciamo che i paesi che si comportano meglio oggi sono Austria, Finlandia, Olanda, Svezia, in parte anche Svizzera e Lussemburgo dal punto di vista di alcuni aspetti, per quanto lei sa che con il nuovo orientamento rispetto ai paradisi fiscali, Lussemburgo, Svizzera e in parte anche Olanda soffriranno in prospettiva di questa scelta che viene dal G20. I paesi che sono invece un pochino più di peso nell'ambito dell'Europa, che mantengono un rating sempre di tutto rispetto, sono la Germania, anche se la Germania ha visto negli ultimi 2 o 3 mesi una moltiplicazione impressionante dei mancati pagamenti, con un'accelerazione assolutamente drammatica, perché negli ultimi 3 mesi sono praticamente raddoppiate le denunce dei mancati pagamenti in Germania. Resta abbastanza solido Belgio, Danimarca, Francia, per quanto anche in Francia alcuni aspetti molto simili all'Italia siano manifestati, Norvegia, la Slovenia nell'ambito dei paesi dell'est e fuori dalla Unione Europea Canada e Giappone. Dunque, visto che, come ricordavo, lei è l'amministratore delegato di Coface, voi avete 1,5 miliardi di fatturato annuo consolidato, 130.000 clienti, 7.000 collaboratori e attività, cioè coprite, seguite le attività commerciali in 65 paesi, come dicevo prima, gestite, date consulenza sia sull'assicurazione dei crediti e delle cauzioni, ma anche il rating, le informazioni sul rating, cioè sull'affidabilità di un'impresa, di una controparte, il recupero dei crediti. Ecco, venendo e chiudendo con voi, visto che lei ci ha raccontato come si è cambiata sicuramente l'affidabilità di alcuni paesi, cambi a livello anche temporale questa affidabilità a seconda di quando l'onda lunga della crisi colpisce e in che modo li colpisce, vorrei capire come è cambiato il vostro lavoro in questi mesi. Ma il nostro lavoro si è molto intensificato perché uno dei punti di forza di Coface, ad esempio, è il rating paese proprio. È un rating che è quello del clima di business che si respira all'interno di questi paesi. I cambiamenti sono dei cambiamenti talmente importanti e repentini che il nostro staff lavora giorno e notte per cercare di tracciarli con molta rapidità e quindi dare alle controparti che entrano in contatto con noi un'informazione puntuale, aggiornata e corretta. E questo è sicuramente un primo punto. Il secondo punto è quello relativo al supporto fondamentale che Coface offre soprattutto nella protezione nei confronti del rischio di credito sull'area export, perché molti nostri clienti hanno un'attività export elevata e quindi ci chiedono sostegno nelle decisioni di sviluppo commerciale e di investimento che devono tutti i giorni affrontare e noi abbiamo indicatori aggiornati che li aiutano ad orientarsi. Li aiutiamo proprio nella copertura delle insolvenze, perché quando i nostri clienti sottoscrivono un contratto di assicurazione si aspettano che nel momento in cui i loro clienti non li pagano o ritardano i pagamenti, Coface li sostenga. Naturalmente si aspettano anche che noi in qualche modo interrompiamo questo devastante effetto domino che durante le crisi emerge in maniera rilevante, cioè l'effetto per cui quando un grande cliente fallisce trascina con sé tanti piccoli fornitori e questo è uno dei fattori che colpisce l'Italia e quindi Coface nel dialogo con i propri clienti aiuta a comprendere a chi i nostri clienti possono far credito, in che misura possono offrire credito a queste controparti in virtù di una loro affidabilità che è misurata con un'alta qualità statistica. In questo senso il rating non solo paese ma il rating proprio delle controparti affidate, che è uno strumento che noi utilizziamo internamente per prendere le nostre decisioni di rischio, può essere offerto ai nostri clienti in modo tale che sappiano che chi li aiuta a fare queste scelte ha una responsabilità diretta perché ha già assunto un rischio, per cui se sbaglia paga. cosa che per esempio non è venuto da parte delle grandi agenzie di rating tradizionali, dove il principio di responsabilità è evidentemente minore. Sì, diciamo che con le grandi agenzie di rating internazionali c'è anche un problema diverso, cioè danno il voto al committente, per cui insomma c'è anche un po' di conflitto di interesse a mio avviso, perché tu non puoi dare un voto a chi ti paga poi per dare questo voto. Mentre, se ho ben capito, quello che voi fate, andate a valutare quella che potrebbe essere, se sono un imprenditore, la mia controparte, poniamo in Polonia piuttosto che in Spagna, e mi fornite anche un voto, appunto un rating, un giudizio sull'affidabilità di questa controparte. Solo se richiesto diamo anche un'indicazione su quanto al massimo tu potrai concedere di credito a questa controparte. Chiarissimo, grazie. Al di là poi dell'attività vostra specifica, mi interessava capire appunto come chi fa gestione del credito in questo momento per le imprese, visto che ogni tanto o non sempre le banche in questo momento riescono ad assistere le imprese in questo modo, come ha visto cambiare il panorama di riferimento e appunto la geografia del rischio. Grazie a Riccardo Carradori, amministratore delegato di Coface. Grazie a lei, arrivederci a tutti voi. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borse e poi della vicenda popolare di Milano, una vicenda che arriverà poi a una, immaginiamo, soluzione entro fine di questo mese, il 25 aprile, se non ricordo male c'è l'assemblea, una vicenda che va raccontata perché è abbastanza articolata, diciamo così, nello suo svolgimento. I messaggi che sono arrivati, vi ho promesso qualche risposta. Dunque, molti di voi danno ragione al Fondo Monetario, che oggi ha detto una crisi in maniera insolitamente lunga. Insomma, altri dicono, ma forse almeno qualche segnale sta arrivando. Oggettivamente siamo in una fase molto molto delicata, cioè non si riesce a capire se questi cauti segnali di miglioramento siano poi, si possono o meno consolidare. Io starei, diciamo così, cautamente in attesa di vedere che cosa succede. La borsa però, la borsa anche oggi ha chiuso bene, e questo è forse l'unico dato abbastanza, che ormai ha preso abbastanza una tendenza, cioè dal 10 marzo, con alcune eccezioni ci mancherebbe, ma le borse hanno preso a recuperare molto, tant'è, visto che ce lo chiedete, che da inizio 2009 a questo punto il calo sul MIBTEL, cioè sull'indice generale di Piazza Affari, è, si fa per dire, solo del 6,5%, quindi non è una cosa, diciamo, drammatica, se pensiamo che l'anno scorso il MIBTEL ha perso il 48% e l'S&P MIB pure, e addirittura in America sul Nasdaq c'è un rialzo del 3%, perfino Londra, borsa che l'anno scorso ha perso il 30%, quest'anno da inizio anno ha perso, tra virgolette, solo il 10%. Comunque, la borsa adesso e i mercati finanziari, come sempre con Radio Coro. Andrea Fontana, Radio Coro, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Fondiari assai più 15,85%, di nuovo forti oggi molti molti assicurativi, e poi Unipol più 10,4%, Mediolan un più 8,20, bene anche Saipem, molto bene, più 8,1, Impregilo più 6, Mediobanca più 5,5 come stima Microelectronics e Bulgari, il 3,90 Geox, il 3,60 Tenaris e anche Monte dei Paschi, il 3,3% Unicredito, sempre di rialzo, Ubibanca più 3, Generali più 2,6, Fiat più 2,3%, il 2% lo guadagna anche Ansaldo STS e la Popolare di Milano. Fronte opposto, Mediaset meno 2,1, Luxottica meno 1 come Finmeccanica, lo 0,7 l'ha perso Parmalat, mezzo punto l'ha perso Autogrill, lo 0,4 Telecom Italia. Titoli quindi quasi tutti positivi, quelli a maggiore capitalizzazione. Partiamo da Unipol e Fondiera Sai. Sì, come tu ricordavi, è una bella giornata per il comparto assicurativo e finanziario più in generale. Sono le buone indicazioni arrivate dagli Stati Uniti grazie anche alle indicazioni di JP Morgan, oltre che diciamo in generale sull'economia per quanto riguarda il settore dell'occupazionale statunitense. Nello specifico per il nostro mercato, Unipol e Fondiaria Sai si sono un po' rincorse durante la giornata, la spuntata Fondiaria Sai per entrambe buone indicazioni, comunque ottimismo dei vertici sui risultati del primo trimestre. Marchionni, l'amministratore delegato di Fonsai, ha specificato questa mattina che si è un po' allentata, vede un po' allentata la pressione sui prezzi e la vede come nota positiva del primo trimestre, anche se sottolinea essere inutile nel primo trimestre non significa niente. Salvatore, amministratore delegato di Unipol, ha detto che appunto il primo trimestre della società è su una strada positiva, c'è una certa soddisfazione per questi conti, il mercato ha subito recepito queste indicazioni premiando non solo loro ma nel comparto anche le generali, in particolare per le buone performance che la compagnia sta raggiungendo in Cina, e generali ha chiuso a più 2,66 quest'oggi. E questo per quello che riguarda Fondiaria, ma come tu ricordavi anche Unipol e appunto generali. E tra l'altro io ricordo appunto la notizia, che anche tu sottolineavi, perché Generali la prima è diventata la prima compagnia di assicurazione in Cina nel ramo vita, con la sua controllata Generali China Life. È notizia che anche ieri abbiamo ricordato. Passiamo ad altri titoli invece. Andrea Saipe, qui c'è un report, come si dice in gergo, positivo. E poi Fiat, perché insomma i dati di marzo sulle matricolazioni bene hanno portato alla casa di Torino. Beh, certamente per quanto riguarda Saipem ha pesato da una parte l'attesa positiva, quindi sembrerebbe, vedendo dei corsi di borsa, dei conti del primo trimestre che sono in calendario per il prossimo 22 aprile, saranno quindi pubblicati la prossima settimana, valgono anche in questa prospettiva le indicazioni arrivate da Equitasim, dell'ex Euromobiliare, che ha appunto indicato un target piuttosto ottimisti sui risultati appunto del trimestre, prevedendo un giro d'affari del 5% a 2,35 miliardi e un utile netto in crescita dell'8%. Invece buona la performance di Fiat, più 2,36% oggi, che è stata certamente sostenuta dall'indicazione dei dati sulle immatricolazioni europee del mese di marzo, per la quale ci si attendeva sicuramente delle indicazioni positive. Se il mercato in Europa è sceso del 9%, le vendite del gruppo Fiat sono cresciute del 14%, la quota di mercato è salita al 9,1% e diciamo così un ottimismo, insomma un'indicazione positiva che ha poi innescato anche l'ottimismo del presidente Montezemolo, che ha sottolineato come gli incentivi stiano movimentando il mercato dell'auto, e per quanto riguarda l'operazione con Chrysler ha detto questa operazione ha il 50% di possibilità di essere realizzata. E le dichiarazioni di Montezemolo, infatti, le abbiamo ascoltate all'inizio del programma, e comunque Montezemolo ha anche ricordato che c'è eventualmente Fiat a un piano B. Andiamo avanti. Non ho visto, ma forse sbaglio io, grandi effetti dei conti Nokia, che insomma meno 90% nell'utile, un insieme di difficoltà. Il settore ne ha risentito, perché mi sembrava di aver visto STMicroelectronics in realtà andare non così male. Esatto, e effettivamente un andamento diciamo così più 5,5, esatto, in controtendenza rispetto a quello che ci si sarebbe aspettato. Il settore tecnologico in generale oggi è stato tra i migliori, l'indice europeo ha guadagnato circa il 3%, forse più che i conti per quanto riguarda Nokia, almeno così dicono gli operatori, hanno pesato un po' le prospettive sull'andamento del 2009, non così negativo come ci si poteva aspettare, tant'è vero che IT, microelectronics, rispetto a una partenza negativa, soprattutto per l'annuncio di un dividendo trimestrale che è inferiore, insomma, a quello degli anni precedenti, ha invece recuperato e ha allungato nel corso della seduta, anche in scia certamente a queste prospettive di Nokia, non tanto ai risultati dei mesi precedenti, insomma. Tiscali invece, andiamo sui titoli più sottili per quello che riguarda il listino. Due titoli che oggi hanno perso parecchio e sono Tiscali meno 10 e Socotem meno 14. Bene invece altri titoli come Seat Pagine Gialle più 15, Fondiaria l'abbiamo detta, Banca Profilo più 19 e poco altro, Gruppo Mutui Online più 10,5%, anche la Carige sulle risparmio più 9,3%. minuti. Allora, Andrea Fontana, Socotem e Tiscali. Sì, tu li ricordavi, sono stati i due peggiori titoli del listino milanese, per entrambi una motivazione comune, cioè la mancata certificazione del bilancio 2008 da parte dei revisori dei conti. Per entrambi erano Ernst Young. Per Tiscali, appunto, è stato indicato che l'azienda sarda non ha i requisiti per garantire la continuità aziendale dopo i risultati 2008, stesso discorso per quanto riguarda Socotem. Grazie Andrea Fontana. Noi restiamo in tema di titoli anche quotati, ma per parlare della Banca Popolare di Milano e di questa sfida tra due, diciamo, sfida assolutamente corretta, assolutamente ci mancherebbe, però una sfida che per il rinnovo della presidenza si è svolta in una maniera anche molto molto moderna, ossia addirittura sul web. Il prossimo 25 aprile, infatti, l'Assemblea della Banca Popolare di Milano voterà il rinnovo della presidenza. In lizza ci sono l'attuale presidente Roberto Mazzotta, sostenuto dai soci privati, e dall'altra parte invece Massimo Ponzellini, sostenuto dai sindacati interni, ma c'è anche Antonello Polita della lista Change. Io ricordo che per statuto le banche popolari, le banche di credito cooperativo, hanno questa regola del voto capitario, cioè una testa un voto, non vale il numero di azioni che tu hai, ma per cui ogni uno può avere il 10%, può avere lo 0,1, vota sempre per una persona. Questo sarà importante per capire poi come si muoveranno, mi sembra, i 40.000 azionisti della Banca Popolare di Milano. E però, dicevo, per ora la sfida si è svolta anche sul web. Intanto ringrazio il collega del Sole 24 Ore, firma anche di Plus, Paolo Zucca. Buonasera Paolo. Buonasera a voi. Sfida sul web, allora ascoltiamola, perché c'è stato un appello del presidente attuale Roberto Mazzotta, che si è appellato ai dipendenti della banca con un video che lunedì scorso è apparso su YouTube. L'assemblea del 25 aprile sarà da una parte l'occasione di una conferma, dall'altra l'occasione di due liberazioni. Mi spiego. Dovrà confermare l'importanza del lavoro che abbiamo fatto insieme, voi e anch'io, per rendere questa banca quello che essa è oggi, una banca pulita, onesta, stimata, efficiente. E quindi questo va confermato in un'assemblea che deve essere fatta con l'orgoglio di un'azienda che ha dal mercato la reputazione che abbiamo noi. Dovremo anche liberarci da due cose. Voi dovrete liberarvi da un'organizzazione del lavoro e da un dominio non del sindacato, ma di chi usa il sindacato per fini di potere interno, che condiziona le vostre carriere, determina il fatto che voi non siate promossi quando meritate, ma quando siete iscritti al sindacato giusto, determina il fatto che non sia possibile premiare il merito, determina il fatto che molte volte le assunzioni sono un po' taroccate. Questo deve essere eliminato. Dobbiamo eliminare un'altra cosa, il rischio che la debolezza del vertice o l'arrivo nel vertice della banca di posizioni in conflitto di interesse possa rendere precaria la sicurezza della banca, che rischia di essere prima usata e poi mangiata. Queste tre ragioni sono quelle che mi hanno portato a presentare una lista e a fare la mia battaglia. Così appunto l'attuale presidente Roberto Mazzotta, che non le ha certo mandate a dire, avete sentito l'ultimo passaggio, il riferimento era all'altra lista, quella appunto appoggiata dai sindacati interni, che vede candidato Massimo Ponzellini come candidato dell'associazione Amici BPM. Anche lui subito dopo è andato su YouTube e anche lui ha lanciato un appello. Sicuramente la crisi attuale ha colpito di più banche che avevano modelli di governance di tipo capitalistico puro e che avevano estensioni su mercati internazionali senza avere capacità finanziaria di controllo che potessero in qualche modo fargli capire cosa stava succedendo, e quindi si sono indeboliti. Indebolendosi i grandi player, i player di media misura come la nostra banca possono sicuramente avere un ruolo maggiore, ma soprattutto è il modello di questa banca che ha impedito questi fenomeni e che è il vero patrimonio che dobbiamo difendere e promuovere. In Europa sono molto diffuse, in Germania, in Francia, lo stesso nostra banca azionista Credit Mutuel ha questo tipo di governance, e sono, a mio modo di vedere, la vera risposta che vi è alla crisi attuale del capitalismo. Chi meglio di chi lavora, di chi è cliente, di chi è stato lavoratore, quindi oggi pensionato della banca, sa qual è il vero problema o la vera soluzione di questo problema all'interno della banca. E quindi il fatto che i termini di voto siano così specifici e divisi ne costituisce una vera e propria ricchezza. Allora Paolo Zucca, aiutaci tu a tirare le somme di questa vicenda, perché anche la lista Change ha fatto un gruppo su Facebook, al di là dei mezzi utilizzati, YouTube, non si era mai vista una competizione così anche aperta, quasi elettorale, per il rinnovo di una carica. Paolo? Ma in verità la Popolare di Milano ha una lunga tradizione di cambi di presidenti, io ne ho visti almeno quattro, perché ogni tanto il presidente eletto con i voti dei dipendenti soci, ripeto i dipendenti soci, come è stato per Mazzotta, dopo un mandato, dopo due mandati, si accorge appunto che questa presenza di dipendenti soci è eccessiva per tutte le ragioni che giustamente Mazzotta ha ricordato, cioè una presenza che va al di là della dialettica sindacale ma che tende a entrare negli organigrammi. Quindi un po' di sangue insomma è scorso anche negli anni scorsi, scusate gioco di parole. Questa volta diciamo che l'elemento più mi colpisce è che un presidente uscente si candidi con i soci non dipendenti, cioè i soci esterni che sono poi anche gli investitori istituzionali. Questo vuol dire che se venisse eletto evidentemente ci potrebbe essere una fase almeno di assestamento iniziale abbastanza difficile con le componenti sindacali interne, con i dipendenti. Non credo che sia questo lo scenario per quello che riusciamo a capire, anche se il risultato è molto incerto. Probabilmente Mazzotta entrerà in consiglio di amministrazione ma con una lista importante di minoranza che potrebbe avere fino a 6 posti in consiglio di amministrazione su un totale di 18 e svolgere lì una funzione di opposizione. L'ex presidente che va all'opposizione. Questa è la tua previsione, Paolo Zucca. No, a noi ha fatto anche appunto così, ci ha lasciato curiosi l'utilizzo di YouTube, ma evidentemente per parlare con i dipendenti, per parlare con gli azionisti, anche questo è un meccanismo delicato. Tu lo ricordavi giustamente, da un lato il modo in cui si vota nelle banche popolari, ma dall'altro anche il ruolo dei sindacati interni. Vedremo, tanto la vittoria o la sconfitta di uno dell'altro la si saprà il prossimo 25 aprile. Per ora grazie a Paolo Zucca del Sole 24 Ore e da Sebastiano Berisoni e voi in ascolto auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.